Però io voglio cominciare con una buona notizia. Quanti vogliono una bella notizia? Non tutti. Non la dico se non siamo unanimi in questa scelta. Vogliamo tutti una buona notizia? La buona notizia è che abbiamo un nuovo album. Abbiamo un nuovo album. Possiamo portare l'adorazione a casa, possiamo cantare in maniera intonata, basta alzare un po' più il volume, così Melissa copre la nostra voce stonata e sarà più gradito a Dio quello che potremo innalzare come canto di adorazione a Lui. Questo è un album di 7 brani, si chiama Quale Re, è stato sudato, preparato, per anni si è lavorato e finalmente pronto. Siete contenti? La novità di quest'album è che non è un CD, perché i tempi sono cambiati, e quindi abbiamo una chiavetta USB. Questa chiavetta USB la puoi mettere nel tuo dispositivo di computer, di televisione, di autoradio che c'ha l'ingresso USB, oppure se non sai che farne e non sai come ascoltare questa musica, compra comunque l'album e regalalo a chi ha un supporto per poterla ascoltare, va bene? E poi gli dici, senti, se tu sai come funziona questa cosa, l'ascoltiamo insieme, io te la regalo, vengo a casa tua ad ascoltare e adorare il Signore, va bene? Però è un modo anche per investire, è un modo per dire io credo nell'importanza di scrivere nuovi brani di lode e adorazione per Dio, io credo nei canti che inneggiano a Lui e credo che il gruppo Pieno Vangelo sta facendo un ottimo lavoro e per questo investo. Quindi anche un tuo dare un'offerta, un dono, un supporto e portarti anche a casa qualcosa, va bene? Ogni altro dettaglio ce la daranno Emi dopo, però io voglio andare subito alla parola di Dio. In Luca 24 noi leggiamo quello che gli angeli dicono alle donne che arrivano al sepolcro e le parole degli angeli sono queste: perché cercate il vivente fra i morti? Che parole gloriose! Perché cercate il vivente? Gesù morto, Gesù che ha patito la passione, Gesù che tutti hanno visto crocifisso, gli angeli dicono, ora non è questo ciò che dovete ricordare. La cosa che dovete ricordare, la cosa più importante è che Lui vince la morte, quello che ha promesso lo mantiene e Lui non è un Dio morto, Lui è il Dio vivo, perché cercate il vivente tra i morti. Noi siamo qui per celebrare il vivente, non il morto. Amen. La Pasqua è ricordata da tutti e il più delle volte ciò che si dà l'accento nel periodo pasquale è proprio la morte, quello che Gesù ha patito, e non voglio screditare o sminuire il valore della morte di Gesù, la crocifissione, la tortura che Lui ha subito, ma la buona notizia di Pasqua, la buona notizia di oggi è che Gesù è risorto. Amen. E infatti loro aggiungono, gli angeli aggiungono, Egli non è qui ma è risorto. Possiamo dirlo insieme, Gesù Cristo è? Gesù Cristo è? Sapete, questa è la differenza sostanziale, al punto tale, questa differenza è così sostanziale nella nostra fede che l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, dice che se non fosse risorto Gesù, vana sarebbe la nostra fede. Sapete cosa significa in altri termini? Che se Gesù non fosse risorto, addirittura la croce non avrebbe il valore che ha. La resurrezione di Cristo è tutto. E io vorrei considerare con voi tre aspetti, tre ripercussioni, tre implicazioni fondamentali della resurrezione di Cristo. Siamo pronti? La prima è la relazione. La prima è la relazione. Noi possiamo avere relazione con Cristo perché Egli è vivo, perché Egli ascolta, perché Egli parla, perché Egli agisce. Questa è la sostanziale differenza di noi cristiani. I musulmani seguono l'insegnamento di Maometto. Maometto è morto e loro non possono relazionarsi con Maometto. I buddhisti seguono quello che è l'insegnamento di Buddha, ma Buddha è morto e loro possono certamente seguire i suoi insegnamenti, ma non possono avere relazione con Buddha, perché non c'è relazione tra i vivi e i morti. E così potremmo andare avanti con i mormoni e Joseph Smith. Loro possono seguire l'insegnamento di Joseph Smith, ma Joseph Smith è morto, non è risorto, non è vivo. Noi possiamo seguire gli insegnamenti di Cristo, ascoltatemi bene, bene, e al tempo stesso avere relazione con il Maestro. Il Maestro è vivo. E quindi noi siamo guidati da un pastore che è vivo, noi abbiamo un amico che è vivo, noi abbiamo un salvatore che è vivo, noi abbiamo una guida che è viva, noi abbiamo un pastore che ci protegge, ci guida, ci cura, e lui è vivo! È vivo! E ti puoi relazionare a lui, anzi... È cruciale per la vita del cristiano, per non finire nel vivere un percorso religioso, avere una relazione con Cristo. Io arriverei a dire questo, che la maggior parte dei tuoi problemi, la maggior parte dei tuoi cruci, la maggior parte delle cose che non riesci a superare, ha una risposta, una sola e semplice risposta: parlarne con Cristo. Avere relazione con Lui quotidianamente e affrontare le tue scelte, i tuoi pensieri, i tuoi cruci, le tue minacce, i tuoi nemici in preghiera, il tuo matrimonio, la tua situazione familiare, la tua situazione lavorativa, devo andare avanti, la tua situazione con la Chiesa, la tua situazione nella società, la tua situazione nel affrontare le notizie di ogni giorno. Tutto fa la differenza nel momento in cui hai una relazione con il vivente. E allora noi non siamo qui per ascoltare solo quello che è l'insegnamento passato di Cristo, ma prendendo in considerazione quello che è il suo insegnamento, sappiamo che è coerente, è contemporaneo e lo possiamo vivere insieme a lui. Possiamo parlarne con lui, possiamo litigare con lui se è il caso, possiamo ragionare con lui, possiamo lamentarci con lui, possiamo piangere, possiamo ridere, possiamo vivere ogni giorno in relazione con Cristo Gesù. E perché? Perché Egli è vivo. Amen. Prima implicazione, la relazione, non di poco conto. La seconda implicazione ha a che fare con la verità che Lui annuncia. Ora, il miracolo della resurrezione di Cristo è il miracolo, e lo vedremo, unico della storia dell'umanità. Non è comparabile a nessun altro miracolo di resurrezione che troviamo nella Bibbia. Il miracolo di Cristo è glorioso, è straordinario, è indescrivibile, è assurdo. E quando Gesù insegnava che lui sarebbe risorto, le persone non lo riuscivano a seguire. Tanto è vero che i suoi discepoli furono smarriti. Non è che quando Gesù morì, per aver sentito tante volte da parte sua l'insegnamento sulla resurrezione, si fermarono a dire: ok, dobbiamo aspettare solo 3 giorni e lui sarà risorto. No, era talmente difficile da comprendere, assurdo da accettare, che i discepoli si smarrirono e lo diedero per morto. Per assurdo diedero più ascolto ai suoi nemici, i nemici di Gesù, alle parole che lui diede, alle parole che lui insegnò sulla resurrezione. I nemici ascoltavano che Gesù diceva ripetutamente: io morirò, ma al terzo giorno risorgerò. Io morirò, ma al terzo giorno tornerò in vita. Demolite questo tempio e io lo ricostruirò in 3 giorni. Il segno che vi do è il segno di Giona, che dopo 3 giorni esce fuori dalla morte, vive una forma di resurrezione. E quindi i nemici di Gesù erano consapevoli che lui aveva questo insegnamento, ma loro erano convinti che lui fosse un ciarlatano. Però non volevano assolutamente che qualcuno potesse riprendere le parole di questo ciarlatano e darle per vero. Ed è per questo che misero una grande pietra davanti al sepolcro, che fu sigillata, e misero a guardia due soldati romani armati che custodirono il sepolcro e si assicurarono che nessuno derubasse la salma. E perché volevano questo? Per assicurarsi che nessuno rubasse la salma e poi perpetuasse questa che loro credevano fossero la propaganda delle menzogne che Gesù aveva detto. E quello che loro avevano ideato quale mezzo per non permettere che questa truffa e questa bugia fosse perpetuata diventò il mezzo che diede ancora più valore e diede ancora più credito alla resurrezione di Cristo, perché di fatto nessuno ha potuto rubare la sua salma, nessuno ha potuto rimuovere quella pietra, è stato fatto miracolosamente da angeli e Gesù di fatto è risorto e il sepolcro era vuoto. Non è incredibile, è meraviglioso considerare quello che è accaduto, perché noi leggiamo che le guardie romane rimasero come morti, morti. E sapete perché rimasero come morti? Perché loro sarebbero dovuti morire a causa del mancato lavoro che gli era stato affidato. Per i romani custodire una tomba o una qualsiasi cosa e fallire in questo significava morte certa. E quindi erano come morti davanti all'evidenza che il sepolcro era vuoto e che c'era un angelo che aveva rimosso la pietra. E quindi come morti rimasero e che cosa fecero? Andarono non ai loro superiori dell'esercito romano, andarono ai capi religiosi per dire quello che era accaduto. E sapete i capi religiosi cosa fecero? Li pagarono profumatamente per dire: non raccontate a nessuno questa cosa, anzi dite che non c'era, dite che è stato derubato. Quindi coloro che hanno voluto sigillare la tomba affinché una menzogna non fosse perpetuata, davanti all'evidenza di una resurrezione o di un miracolo tale, pagarono e cercarono di perpetuare una bugia però che non regge, perché i discepoli sono l'altra dimostrazione del fatto che quanto Gesù ha detto e ha realizzato nella sua resurrezione è vero, e sono stati disposti a morire. Gli stessi discepoli che dopo la morte di Gesù erano tutti dispersi, tutti impauriti, tutti che fuggivano alla possibilità di morire loro stessi, dopo la resurrezione, davanti all'evidenza di Cristo risorto, tutti muoiono per annunciare che Cristo era risorto. E chi morirebbe per una bugia? Chi morirebbe nel perpetuare una bugia? Pochi. Tutti loro invece furono disposti a morire e a morire di martirio per annunciare che Cristo era risorto, perché Cristo è veramente risorto. Alleluia. Amen. Quindi il secondo aspetto è che noi possiamo avere fiducia delle parole di Gesù, perché quello che lui ha detto, lui ha adempiuto. E se ha adempiuto quello che era il miracolo più assurdo, più lontano da ogni realtà, da ogni possibilità, allora è vero ogni altra cosa che lui ha detto di se stesso. Ogni cosa che lui ha detto sul suo conto è vera. Ogni cosa che lui ha detto sul nostro conto è vera. Tutto quello che lui ha preannunciato si è avverato, e tutto ciò che ha preannunciato e ancora non si è avverato si avvererà, perché lui è vero, lui è verità. E quindi la seconda ripercussione della risurrezione è riconoscere che di lui ci possiamo fidare. Ti puoi fidare di Gesù. Ti puoi fidare di tutto quello che lui dice. Tutto quello che dice è vero. E Tommaso, lo sappiamo, il discepolo incredulo, davanti all'evidenza del corpo di Cristo, dopo aver toccato le cicatrici sul suo corpo, che cosa esclama? Lo leggiamo insieme. Esclama queste parole in Giovanni 20:28: Signore mio e Dio mio. Vedo che non suscita molto. Tommaso era un incredulo. Tommaso credeva che non era possibile che Gesù risorgesse. Tommaso tocca le sue ferite e ora dice: tu sei veramente chi hai detto di essere. Tutto quello che tu hai insegnato è verità. Se hai detto che sei Dio, allora è proprio così. Signore mio, Dio mio. La resurrezione di Cristo ci porta ad avere fiducia di tutto quello che Lui ha detto. E qui viene il terzo punto, quello fondamentale, sul quale mi intratterrò almeno altre 2 ore di predicazione, perché ci tengo talmente tanto e vi terrò incollati a questa sedia, perché oltre l'importanza della relazione e della fiducia, la resurrezione ci parla del nostro destino. E io voglio sottolineare questo aspetto, perché non se ne parla abbastanza, anzi si parla molto poco del nostro destino. E in un anno nel quale noi stiamo considerando di andare verso la direzione di Dio, e ovviamente lo applichiamo alla nostra quotidianità, non possiamo perdere di vista la tappa più importante, la destinazione maggiore per la quale Cristo stesso è morto, ovvero la nostra vita eterna. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, aiutatemi, ma abbia vita eterna. Gesù è morto ed è risorto per anticipare una strada che tutti noi vivremo. Noi moriremo e risusciteremo. Amen. Siete entusiasti di questa cosa? Perché l'andiamo a esplorare insieme, è molto importante. Io vorrei partire, quindi tutto quello che ho detto cancella il cronometro, ora si parte con la predica vera, e vorrei partire con questo verso che troviamo in Giovanni 14, dove Gesù che dice: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, ascoltate, affinché dove sono io siate anche voi. Dove sono io, dice Gesù, siate anche voi. La nostra destinazione eterna, il nostro soggiorno eterno, il nostro destino eterno non è questa terra, non è questa vita, non è questa società, non è questo mondo. Amen. E questa è una buona notizia per chi si rende conto in che mondo ci troviamo. La Bibbia dice che ci sarà un nuovo mondo e nuovi cieli e una nuova terra. Nuovi cieli e nuova terra. E Gesù dice: io vado a prepararvi questo posto, e dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado sapete anche la via. Ed è Tommaso che dice: e dov'è la via? No? E Gesù poi risponde sempre a quel discepolo: io sono la via. Io sono la verità, io sono la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ora consideriamo questo. In Cristo, nella sua resurrezione, noi abbiamo possibilità di relazione. In Cristo, nella sua resurrezione, abbiamo la possibilità di credere in tutte le sue verità, in tutte le cose che Lui ha anticipato. In Cristo e nella sua resurrezione abbiamo la possibilità di assaggiare, osservare, aprire un attimino la tenda che ci impedisce di vedere la vita eterna, e avere la possibilità di guardare un pochino oltre. Volete guardare un pochino oltre? Perché guardare un pochino oltre c'è dato attraverso la parola di Dio. Ora, non c'è descritto tutto, la tenda non è che si spalanca davanti a noi, perché non comprenderemmo affatto tutto quello che c'è dopo. Siamo su questa terra, siamo limitati, abbiamo una mente limitata, però Dio ci dà quella sufficiente possibilità di intravedere quanto c'è davanti per esserne entusiasmati e motivati. E il motivo per il quale ne voglio parlare è perché in Colossesi 3 dice: aspirate alle cose di lassù. Aspirate alle cose di lassù. E Paolo, quando in 1 Corinzi 15, il capitolo che accennavo prima, parla della resurrezione, dice che se non ci fosse resurrezione, allora mangiamo e beviamo perché tanto domani moriremo. La conoscete questa frase? Paolo la prende da Isaia, ma è anche un detto, una diceria del tempo di Corinto. E non è forse anche la diceria che c'è oggi? Non è il modo di parlare di oggi? Edonismo è questo, inseguire costantemente il piacere carnale terreno. Perché? Perché tanto domani moriremo e allora mangiamo oggi, beviamo oggi, prendiamo tutto quello che la vita ha da darci, prendiamo tutto il piacere che possiamo prendere perché domani moriremo. E se non ci fosse resurrezione, allora questa filosofia di vita sarebbe anche giusta. Ma questa filosofia di vita è abbracciata da coloro che non abbracciano l'eternità. Noi in Cristo abbracciamo l'eternità e quindi non possiamo dire mangiamo e beviamo, viviamo una vita superficiale, viviamo su quelli che sono i piaceri che ci vengono offerti, truffiamo, accumuliamo, guadagniamo, sgomitiamo, calpestiamo l'altro, perché tanto ciò che conta è quello che possiamo afferrare oggi su questa terra. Se questo è il nostro pensiero, la mia preghiera è che questa mattina sia smantellato. E che tu possa renderti conto che davanti a te, davanti a me, c'è una vita eterna. E Gesù dice, fatevi tesori nei cieli. E quindi che cosa possiamo vedere? Guardando oltre quella tenda che si può aprire? Beh, dobbiamo considerare la resurrezione di Cristo, però per considerare la resurrezione di Cristo dobbiamo comprendere l'unicità di questo miracolo. Perché la Bibbia è piena di episodi di resurrezioni di uomini e di donne. Ve ne elenco qualcuna, sicuramente le ricordate. Il figlio della vedova di Sarepta, resuscitato da Elia. Il figlio della Sunamita, resuscitata da Eliseo. Un uomo che fu gettato nella tomba di Eliseo e che tornò in vita. E durante il ministero di Gesù stesso, vi ricordate la figlia di Jairo? E poi il figlio della vedova di Naim, Lazzaro, la storia che tutti conosciamo, dopo 4 giorni già puzzava e Gesù lo riporta in vita. E dopo la morte, la resurrezione di Gesù, noi leggiamo di altre persone che sono risorte. All'atto della sua morte noi leggiamo che dalle tombe persone furono riportate in vita. E negli Atti degli Apostoli leggiamo di Tabita, risuscitata da Pietro, e di Eutico, risuscitato da Paolo. Vi ricordate quel ragazzo che si addormentò mentre predicava? Non addormentarti durante le prediche. Potresti perdere la vita. E io non sono l'Apostolo Paolo. Non ti garantisco di riportarti in vita. Però ascoltatemi bene. Nessuna di queste resurrezioni è come quella di Cristo. Le resurrezioni di questi uomini era un ritornare in vita, ma questi uomini sono tutti poi morti una seconda volta. Che tristezza, no? Non solo sono morti la prima volta, poi sono morti di nuovo. Gesù no. Gesù non ritorna in vita, lui anticipa una nuova vita. La resurrezione di Cristo anticipa quello che noi vivremo all'atto della nostra morte, ovvero che i nostri corpi saranno resuscitati e saranno glorificati. Il corpo di Cristo era simile a quello precedente, ma trasformato e glorificato. Era un corpo che ci parla del nostro corpo. E perché dico queste parole? Perché noi lo leggiamo insieme in vediamo dov'è. Devo cercare il verso, in Filippesi 3, capitolo 20. L'Apostolo Paolo dice, quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore. Ascoltate, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria. Siete curiosi? Vi ho reso un po' più curiosi, perché noi avremo dei veri corpi. Ascoltate bene, non ci sono tantissimi elementi che troviamo nella parola di Dio, ma ce ne sono alcuni e sono sufficienti e sono piuttosto anche numerosi che ci danno la possibilità di non vedere l'ora di quello che avverrà alla resurrezione dei nostri corpi, perché i nostri corpi, ascoltatemi bene, saranno dei corpi glorificati, incorruttibili. Che cosa significa questo? Che saranno dei corpi. Non alleggeremo, ecco, per renderlo proprio molto pratico e concreto, non alleggeremo sulle nuvole. Non saremo con gli angioletti e l'arpa camminando, aleggiando nell'aria. No, noi avremo dei corpi come quello di Gesù. E Gesù dice carne e ossa. Saranno dei corpi tangibili, saranno dei corpi che si potranno toccare, saranno dei corpi che ci permetteranno di spostarci, saranno dei corpi che ci permetteranno di interagire, ascoltate bene, saranno dei corpi che ci permetteranno di riconoscerci. Saranno dei corpi, questo piacerà ad alcuni, con i quali potremo mangiare. Lo sapevi questo? E non perché dovrai sostenere, non dovrai fare la dieta che Luigi ha predicato domenica scorsa, no! E no, e io devo proprio perfezionare la predica di Luigi con la mia di questa mattina, perché un giorno tu potrai mangiare tutta la Nutella che vuoi, fare scorpacciate di cose che grasse, succulenti, e il tuo corpo non risentirà affatto alcun male. Perché? Perché saranno corpi perfetti. Amen. Glorificati, incorruttibili, eterni. Che altre caratteristiche, troppo bello andare a scavare su queste verità. Io in questi giorni non potete immaginare che cosa non ho mangiato alla luce di queste verità. Saranno immortali. E quindi non si deterioreranno. Io ve l'ho detto che quest'anno ho avuto un abbassamento della mia vista. Io che ero orgoglioso della mia vista, dicevo a tutti, oculisti compresi, no, a me la soglia dei 40 anni non mi fa niente. E infatti la soglia dei 40 anni non mi ha fatto niente, ma a 45 anni, vedete i miei appunti, io li metto in caratteri 14 e devo trovare la giusta distanza per metterli a fuoco oggi. I nostri corpi non si deterioreranno, non saranno mai stanchi, non saranno mai svigoriti, non saranno mai malati, non saranno mai in condizione da portarci alcuna sofferenza. Ma ci pensate? Dio ci parla di queste cose per avere aspettative, e noi dobbiamo guardare le cose di lassù. Che altro possiamo dire dei nostri corpi e non coprire due ore di tempo, ma andare verso la conclusione che i nostri corpi saranno dei corpi che non subiranno alcuna influenza del peccato, perché il peccato non ci sarà più, ma ci pensate? Saranno corpi spirituali, nel senso che saranno completamente guidati dallo Spirito e non ci sarà più tentazione o carnalità. Cioè, questo significa che tu non avrai più gelosia, che tra di noi non ci sarà più rancore, bisticcio, incomprensione, ci sarà un'unità, ci sarà un'armonia incomprensibile per noi oggi. Ma un giorno noi saremo privi di ogni tentazione e di ogni legge del peccato che oggi invece ancora domina su di noi o vuole dominare su di noi. Il nostro corpo sarà definitivamente libero dal peccato e saremo perfettamente idonei alla vita eterna che Cristo ha preparato per noi, ai nuovi cieli e alla nuova terra. I nostri corpi saranno adeguati a quella nuova condizione. Quindi che cosa è accaduto con la resurrezione di Cristo? Che Cristo ha anticipato e ha aperto una nuova strada, un nuovo corpo che anticipa i nostri nuovi corpi, una nuova via nella quale anche noi tutti vivremo, una nuova esistenza per l'umanità. Devo andare avanti. Io vorrei andare avanti per dirvi che in quel luogo non ci sarà più sofferenza, non ci sarà più ingiustizia, non ci sarà più guerra, non ci sarà più violenza. Sarà un luogo dove esisteremo, dove vivremo, dove interagiremo, e sarà tutto meraviglioso. Ed è per questo che Cristo è morto Ed è questo che lui ha fatto nella sua resurrezione. Oggi, nel celebrare la Pasqua, abbiamo la possibilità di chiederci: siamo in relazione con il vivente? Perché questo è fondamentale, di fondamentale importanza. Gesù ci farà solo una domanda: se ci conosciamo. Ed alcuni dirà: ma io non vi ho conosciuti. E allora puoi sentire la storia di Gesù, puoi perpetuare la storia di Gesù, puoi conoscere gli insegnamenti di Gesù, ma ciò che conta è: hai una relazione con Lui. Puoi dire che hai ottenuto salvezza per la sua grazia e che questo ti dà accesso a una intima, personale relazione con il Salvatore. La seconda domanda che ti vorrei porre è: hai fiducia del fatto che tutto ciò che Gesù insegna è vero? Che queste cose di cui ho accennato e che vi invito a leggere, approfondire, a studiare, sono verità alle quali aspirare, perché non viviamo per questa condizione terrena, non viviamo per il nostro soggiorno terreno, viviamo per l'eternità, e vivere per l'eternità significa avere una prospettiva completamente diversa. Ti fidi che tutto quello che Gesù ha detto è proprio così? Perché se ci credi, allora la tua vita sarà trasformata. Oh, sarai disposto a vendere tutto e andare dovunque Lui ti chiede di andare. Il tuo perdere la faccia per parlare agli altri di Cristo non sarà più un perdere la faccia, sarà un guadagnare tesori nei cieli, perché non potremo portarci argento e oro nei cieli, ma potremo portarci le anime che avremo conquistato attraverso l'annuncio dell'Evangelo. E questa è la ricchezza che dobbiamo portarci i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri vicini di casa, i nostri colleghi di lavoro hanno bisogno di sentire che un giorno tutto questo passerà e ci sarà l'eternità, che non ha niente a che vedere con quelli che sono 80, 90, 100, 120 anni. Per i più longevi non ha niente a che vedere, è incomparabile l'eternità rispetto a 120 anni. E questo ci permette anche di comprendere come Dio funziona e come Dio agisce, perché Lui non agisce con la nostra vista miope per tutto quello che va vissuto oggi, va ottenuto oggi, va guadagnato oggi. Gesù vede l'eternità e Lui permette delle avversità, Lui permette delle stagioni difficili per svegliarci, per scuoterci, per farci comprendere che non dobbiamo essere miopi e vedere solo quello che c'è oggi, ma vedere l'eternità. Ultimo aspetto: sei consapevole che il tuo corpo sarà trasformato e glorificato? Sei consapevole che vivrai per l'eternità in perfetta relazione con Dio e con gli altri? Perché questa è l'essenza dell'Evangelo e non possiamo omettere questo aspetto e comprendere pienamente l'Evangelo. E allora stamattina, nel celebrare la Pasqua, nel prendere il pane e il vino, io vorrei leggere quello che Gesù dice in Marco 14, perché qui c'è la descrizione di quella che è stata la cena del Signore, l'ultima cena che noi oggi celebriamo. Ed è scritto così: che mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, dopo aver pronunciato la benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero. Ed egli disse loro: questo è il mio sangue, il sangue del patto, che è sparso per molti. In verità vi dico che non berrò più, ascoltate ora, del frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo nel regno di Dio. Gesù, attraverso la cena, non ci dice solo di fare questo in memoria sua, per quello che lui ha vissuto. Di fatto la Pasqua non è la commemorazione di un uomo morto, è la festa del festeggiato presente che è vivo in mezzo a noi. È la festa che ci porta ad annunciare che una relazione con Lui è possibile. Noi prendiamo il pane, noi prendiamo il vino, entrando in comunione con Lui, un'intima comunione con il suo sangue e con il suo corpo, ricordando quello che Lui ha fatto per noi, non solo quando prendiamo questo pane e questo vino, noi guardiamo avanti a quel giorno nel quale questo pane e questo vino lo berremo e lo mangeremo in sua presenza, insieme a tutti i santi di ogni nazione, di ogni etnia e di ogni tribù, nella festa dell'agnello. Quindi questa mattina io ti chiedo, vivi questo tempo di preghiera, vivi questo tempo di comunione, vivi questo tempo di intimità, facendo la tua scelta, rinunciando a te stesso, vivendo per qualcosa di più grande, vivendo per l'eternità. Vogliamo alzarci in piedi? Vorrei che chiudessimo i nostri occhi. Siamo alla tua presenza, Gesù. Prendiamo atto di quello che la tua parola dice. Alziamo il nostro sguardo verso le cose di lassù. Vediamo l'eternità. Intravediamo la gloria. Sappiamo che la promessa della resurrezione dei nostri corpi è vera. Sappiamo che tu sei morto per questo, non per darci un soggiorno terreno migliore, ma per permetterci di vivere un soggiorno terreno in vista di una gloria indescrivibile e eterna. In questo giorno che vede molti cristiani riunirsi, celebrare in ogni parte del mondo, in questo giorno dove ancora in tanti sacrificano la loro vita come martiri, in questo giorno dove la Chiesa perseguitata, come risaputo oramai da anni, conta le maggiori vittime nelle celebrazioni pasquali, in questo giorno noi ci uniamo a chi sta perdendo la vita, a chi la sta sacrificando per la causa tua, a chi è disposto a deporre la propria vita pur di continuare ad annunciare la resurrezione. E vogliamo lasciare la nostra miopia e ogni miopia che il maligno vuole mettere in noi. Vogliamo lasciare l'edonismo, vogliamo lasciare quella continua e frenetica ricerca del benessere personale odierno, a discapito di quello che è eterno. Davanti a questo pane, davanti a questo vino, davanti a questi simboli che ci ricordano quello che tu sei stato disposto a patire e a pagare, quale prezzo di riscatto per noi, noi ci abbassiamo, noi ci umiliamo, noi ti chiediamo perdono e diciamo ancora: Gesù salva, salva questa generazione incredula e perversa, Gesù salva i nostri parenti, Gesù salva le nostre famiglie, Gesù salva le nostre città, Gesù salva questa nostra nazione, Gesù salva le nazioni, Gesù salva. Serviti di noi. Vogliamo partecipare a questa cena, consapevoli che è memoria della tua morte, ma anche memoria della tua vittoria, della tua resurrezione. Vogliamo celebrare questa Pasqua sapendo che un giorno veramente non sono favole o racconti distorti, sono la verità di quello che accadrà, il destino nostro un giorno alla tua presenza, alla presenza degli angeli, alla presenza delle migliaia di persone che avranno scelto te e saranno state salvate. Noi mangeremo con te, ti vedremo per quello che tu sei e guarderemo a noi stessi e ci renderemo conto di quale gloriosa opera tu hai compiuto. Perché se oggi noi esultiamo e gioiamo della bellezza della salvezza, in quel giorno non avremo parole per contenere la gioia del riscatto completo che avremo avuto in virtù del tuo sacrificio. Ora, Signore, io ti prego che questo incontro possa essere qualcosa di speciale per tutti noi, qualcosa di diverso. Gesù, io prego che tu possa rompere ogni religiosità, ogni schema. Io prego che tu possa farci entrare in una relazione intima, profonda. Io benedico questo pane, io benedico questo vino, ma ancora di più benedico i nostri cuori e prego che siano predisposti ad entrare nella dimensione che tu vuoi che noi afferriamo. E se siamo come quei discepoli che abbiamo paura e siamo disposti a scappare e a tornare alle nostre vite come Pietro ha fatto a pescare, che noi possiamo avere rivelazione della tua resurrezione per vivere quella vita alla quale tu ci hai destinati, da martiri. Il mondo possa vedere in noi la presenza tua e riconoscere che le nostre parole non sono favole raccontate da uomini, ma la realtà. Oh Signore, io prego che nel momento in cui la mia preghiera si fermerà, la preghiera della Chiesa possa elevarsi a te, che ognuna delle persone qui presenti possa relazionarsi con te, che ogni silenzio possa essere interrotto, che ogni relazione rotta possa essere ripristinata, che ogni distanza che si è creata possa essere ravvicinata, Signore. Io prego per chi non è salvo in questa assemblea, in questo luogo, che tu possa toccare i cuori, portare al ravvedimento. Opera tu in questo incontro, in questo tempo che ci sta davanti. Benedico il pane e benedico il vino nel nome di Cristo Gesù.